Olá, Chico 23. Hola, canale 23. E chi è? È Beto. Buonasera, caspita. Ah, signor Gio Maria. Urugaglio, non è di mondo? Buonasera a te. Già c'ho il condizionatore acceso io. C'è fresco. Quasi freddo. Per cui... Però quando mi sposto a questa casa esco fuori, c'è il fuoco. Già ti grido. Perché fa così? In una camera c'è fresco. E ci vola, caroli. Per carità, gatta. Caldo, un bel caldo, gatta. E io che peggio di casa tua, Perché io sono all'ultimo tanto, tu sei in mezzo magari, per cui non ti tocca molto, Oh, io giocavo primo, no, ero secondo. Non sono in mezzo, ma sono sotto. Ma è di meno il calore, là. È di meno, no, come me, che sono sotto la porta, cazzo, per cui, cazzo. Cadi sapore, cazzo, per fare... Fare la siroga. Perché lì c'erano volute le tegole, c'erano volute. Con le tegole non fa calore. Ci avrebbero messo il calore, invece hanno messo queste piatte di catrapo, ragazzi, che cosa avevo fatto. Purtroppo quando cadi si piatte lì, ragazzi, ti arrugini, manda calore. Sì, arrugio così, cosa faccio? Già lo so cosa fa, purtroppo è così. Fa di freddo, vorremmo un gaggio, fa di gaggio, vorremmo freddo, non siamo mai contenti, là. Infatti così non siamo mai contenti. Però sopportiamo, tiriamo avanti, come va. Purtroppo sì. Sopportiamo e tiriamo avanti. A mare ci farà tu. A nessun luogo, a nessun posto sono sceso. Sono andato in garage e mi sono cambiato i muti al carrello. Così domani mattina lo prendo e lo lavo. Lavo il gomone e lavo. Così lo tengo già pronto, bammati. E tutto quanto. Te lo pulisci, te lo lusci ed è già pronto, va bene. E ha un grido, così lo lascio già pronto, lo lascio. E tutto quanto. Pronto, babbe, già. Va bene, là. Prima che mi ascolto, se no gli avvisai. Gian Maria, già sono qua anche io. Attenzione signor Bacchiglio. Salve signor Battisio! Oia! Bene siamo? Oh signor Battisio! Caspita! Andi sì! Fatta, mi si arriva il segnale 2-3 di segnali a radio bassa! E adesso tu? Adesso è tu! Cata, ma ancora i 2-3, commutato? Ho commutato. E se lo fai lo scambio di persona non anda. No, anda no. Andate brava zia, scusate, mi pare che eri fuori zona. No, anche in zona no, mi pare male. Mi pare ieri a Plattamona. Sì, a Plattamona io. Oh, Gitto, mi pare ieri a Giorgio a Plattamona. Ah, sì. A me se io sono vado da San Silvestro, Francesco Marino. Oh, stava parlando prima con me, a voi deve darsi fa vedere un tipo. Sì, è a Bruvendi, a casa Bucco, non c'è un diploma verticale. Ho il polo in verticale. Ah, con l'antenna bibanda. Sì, un polo normale. C'è una domanda con un tono di casino che fa, non so, era un piede a massa, vera? Mi girava per fondo scala, è vero, un piede a massa. Mi era già da dove? Ah, mi ha fatto i cidrucci, alla fine ci sono, devo controllare tutto, ho cominciato da un capo, adesso che arrivi da Elsa, sto bastardo, poi io da prima. E magari era Ghiccio che era in coso, ma quando era piazzata qua da te. Infatti, ci a terra, 3 di stazionale, 3 e mezzo. Accorciavo, alla fine mi rompere le mani antenna. E ti ha fatto girare i catteri di UBL. Sì, tranquillamente ce l'ho fatto, vai a carina. Cosa si muoveva? Tutto quanto si muoveva? Era il polo positivo col negativo. C'era qualche malasciotto di cosa? Di pezzo di fabbrica all'interno della struttura. Anche la civiglia nuda, però era in corso. Oh, allora è così, infatti, quando fa così. Quindi rampantino e poi in un altro. Infatti, tu devi rampa e poi in un altro. No, devi rampa, sempre in tre. E io ero grido, grivo in tre. Però quando si tratta di ciò difettoso, non trovo in darido. No, non ne voglio prendere in darido, io non sono dentro. Io capivo parlare di te. Infatti l'altra volta avrei aggiunto io che mi hanno dato uno difettoso e se l'ha avuto punire una base. Mi ha detto, dice, perché non me l'hai portato? Anche tu tanto non me lo giambi. Con la paglia e non puoi mettere la mano, così posso sentire. Infatti, così ti rispondi. E così era... Piano, è sempre andente. Io sto sempre impaccendo, insomma. Ciò che sto facendo, va. Mi voglio distruggere. Il filo dove ci ho messo nel dipolo, un metro più grosso. Adesso c'è da 1 e mezzo, io devo mettere da 2 e mezzo. Ma chi? Ha già avuto in vendita un'antenna bibanda che fa da cosa? HF. Ma ti si chiama HF, VHF e UHF. E se non vuoi attrezzatura non ti dico nulla. O quella servirà più avanti, mi servirà, canno basso. Allora la comparente a quello a parte, con il magazzino. Oh, c'è da buio, c'è qualcosa, già me ne volta da buio. Se lo comparo tutta da buio. Ma tu viene un magazzino di roba, c'è un magazzino più. Sì, carta tanto non è poco pieno. Già me ne sto liberando un po' di roba, infatti, me la da bui, Giava, me la da bui. Buonasera, signor Marchiglio. Oh, buonasera, Gian Marino, vieni ascoltato, avanti. Tore, ci deve mettere conserva soldi, almeno si prende tutto dopo. Ehi, poi compro tutto. Alla fine ci compro anche un arginello e un cavetto per viaggiare. E allora, dai, vai, ehi, va bene, se c'è la passione a chi riesce, è in fretta pure, vero so. Signor Grido, all'asinello l'attacco l'antenna, il mongo l'antenna ne ho in capo. No, se continua così, c'è la piazza a Torre, a studiare, c'è la piazza a studiare. A me che lo piaggi. No, a tutti che piacciono, risva la pazienza, risva, per cui fa bene, dai. Piatto che ci riesci, dai. No, ma poi se vuoi mi tocca la metà, anche gli strumenti sono i miei, non credo, hai chiudete, non è la roba mia, a me tocca la metà del capotente. Cazzo, dopo ce ne voglio le soldini, però piano piano, chi c'ha la passione, già escono fuori piano piano. Lo annoto. Tutta faccia, ma da voi vorrei sugli avvene. Infatti, piano piano, che va piano, passare va lontano. Io sto studiando tontologia, ma chi? La città storia ci vuole, se la quinta la metà la luce di stearica. Allora, certo, ho provato la volta, ma non è tanto facile, per cui, può capitare, basta studiare e vedrai che le cose vanno bene. Ma, ti ricordi del Limonero? Io sono andato insieme al Limonero. Dura dura, Giammarino, dura. Io da cerco un libro con la pastore, tu sei. Leggi, quindi io non mi sarei sapendo. E allora c'era il CV doppio, adesso il CV doppio non ce l'è, ma hanno aumentato i quiz, per cui siamo sette, però quando uno studia già è facile, dai. Ettore già di quelle persone che piace studiare. E fai bene, Ettore. Ehi, piano piano, mi disoccupendo, piano a piano mi disoccupendo tutti i quiz. Se vuoi genere qualche un paio di voci mi fossero un libro e un paio di voci mi fossero qui. No, un giorno uno o un giorno l'altro. Fai bene, fai bene. A ne vedi di fuga, ne vedi, oi. Centro d'Argosolo, vicino a Argosolo, poi ieri alla parte di Nulvi, alla parte di Bonorva e Coso, e Uri. È quella tenuta che si è incendiata, dov'era ieri? Vicino a Bonorva. Tutto incenerito là, Ma dici che non ha un paggio, dici sì. Unendo i cosi per incendiare. Gli inneschi hanno trovato, che non sono passati, hanno trovato questi qua, hanno trovato. Ma persone? Due persone, due giovani. Allora che lugonza va? Al minimo sono 20 anni, so. Minimo sono 20 anni, ma che sono cane bruciato. Questi qua c'è una pena fortissima, adesso. Fanno bene, riprese, ma... No, sono marino, mettono in galera, no? La cosa che ha fatto, non aveva fatto fare dei pantaloni, l'aveva portato a quello a fuoco, adesso ritorno la savotta. Sarebbe stato ideale, ma non lo posso fare, però sarebbe stato ideale a fare quel lavoro, a quella gente. No, se no non si tira fuori niente, perché da 3 anni la condizionale, ma niente ha fatto il sacramento dei danni, ha morto niente, animali e tutto. E invece abbiamo fatto di da maniera, signor Bacchì, abbiamo pigliato e te l'abbiamo cotto in mezzo al fuoco. Ma non si è troppo brutto per pigliare, ma che morire subito, invece se fosse a cura fuoco la brace, piano piano con la mezza sardina. Ma tu lo vuoi far soffrire troppo, faccio che da maniera soffri ma un poco, a voi ci fa di secco bruciato, arrostito. Che gusto, vedete questo fuoco andente. Alla valla naudi che c'è lui. Bisogna vedere da forestare se si rapporta direttamente in carcere. Ma chi si lascia il scallibari, sta tranquillo. Entra una gianna e scende dall'altra. Mi pare di no, anche per incendio doloso. Si dirà qua, si è condannato una volta. Una volta per sempre, così impara, sai niente, se no non ne cavo bene. Allora, in 2 mesi hanno bruciato mezza Sardegna. Allora, certo, ho già abbattuto di Argosolo, vicino, e tutte le altre paesi che ci sono vicino. E così è. E signor Marino, sei inteso dopo? Boh, ha sentito su Manzano, ha detto che era sentendo un fuoco, poi non l'ha più inteso. Allora può prendere un fuoco ancora? Ah boh, non lo so, no. Ma non intende a chi sì. Sì, si va all'ufficio con lo comito a bicchio. Sicuramente sì. Sicuramente sì, signor Bacchi. Mi auguro, devo domandare un piacere. Se mi fate l'impegno, fa una iadina. Ha diventato pollo? Ah, che ora sì, devi cercare un pollo. Allora fai prima a ciappare un giallo. Ah, no, mi ha ciappato tutto. Da trovare l'ufficio collocamento, che si mandi e ti dato un pollo. Ah, così è. Andiamo, vai, andiamo. Signor Marino, ci sei? Mi sono la presente con la bionda. Ah, ma non lo so, no. A me mi pare che sia a curammuglio. E io sono sicuro con la bionda, la presente con la bionda, e dunque non puoi uscire. E vai, diventerò un carattere a moglie. E boh, hai sentito un po', lo va a cacciare a me. Ah vai, 30-31 carattere. Ma non lo so, no, signor Bacchi. Attenzione, signor Marino, ha detto che è impegnato. Anche visto che c'è quello come se è impegnato. Sì, andiamo bene. Dopo, andiamo male, male, male, male. Ci domani fate il fuoco, andiamo ancora al peggio. Oh, da oggi mi ha messo questo venticello di coso. Ma domani ci dovrebbe essere più fresco, che c'è anche il maestrale. Allora mi arriveranno una pioggia di lina. Speriamo, ma manco rinfresca un po', mi sto pulendo il portoferro, sto pulendo. Pulendo non so. Ci sono i volontari pulendo il portoferro per quelli che sporcano, per i forcaccioni. Guardate questa terra, uomo. Di cosa mai la voce in mano, cosa ti ha avuto a sorrente, no, in cammino la lampada, in mano, a parte della campagna, le autorine, tutto un filo di buchi, e si è trovato a mezzodì. Sicuramente, ci sono i giovani, che i buoni a mangiare e cose, e fateni pure, tutti i buchi fateni pure. Signor Bacchi, io la salina già ho un paggio. Mi dici che appena la cosa in terra agito, non è giusto che gli altri puliscano per te e tu porcaccione, dici. Non lo lascia per il culo di burro. Ma sai cosa mi ha rifuso? A farmi gli affari miei. Agito, non me li faccio io gli affari miei, sono affari tuoi anche, che devi tenere il posto pulito, non che ti devi cagare addosso. La bizzina ha detto, c'ha ragione il signore, non si deve buttare nulla, ha imbigliato una corso tutto. Io ci sono deluccato, vedete che ci sono dei che, ma è deluccato, prepotente di più di burro, qua che mi ha rotto la faccia. E come te che ci hanno fatto a Napoli, ci sei quattro che hanno cotto a Isubo Pulizzotto. E io ci sono dei fatto? A Isubo ne aveva messo il godo direttamente. Sono un uomo, amico. Napoletano, amico. Napoli, Napoli, che vuoi fare? Ogni paese ha i suoi difetti. Noi avevamo i difetti di uffetti, erano i risumi. Ma non so pochi i difetti che fanno. Sono bei. Gli altri sono maraducati. Ricordo di sempre, le occasioni è degli addrata, noi iniziamo a resivi. Ma non lo so. Previdare che è tu gozo per tanto di bigliarli e quadrigliare un muro. Annurra dove abbocati, a quelli presa, annurra quelli presa. Che cosa vuoi fare? Va. Ogni tanto già ne c'è qualcuno, mettendo al pronto soccorso. Sì. Sai dico. Mi fa se i bocca con nulla fa i muri di brida, io dobbiamo andare a cercare un cucoi. E mai su gota a garo. Se vuoi il cucoi corre alla muri di andiamo a brida, e non fai fatica. E puro bisogna proporre quello che la vecchia. E infatti è così purtroppo, è così. E così proprio. Vediamo Marino se c'è la cosa da Marino. anche se deve darci tanto una vicina, deve darci e se la furbiciato ma dice un oro gioco non un gioco di dice però sarà un muglio nulla, forse c'è la seconda con mio nipote, allora la partitella. Cos'è signor Bacchi? Che c'è la partitella con il nipote. E allora sarà, ma non penso che sei in campagna sua. Che c'è il campo sportivo, c'è il trompetto, no, per giocare. E tu che stanno facendo la partitella? Ehi, tutti sul gallo, uia, una giudata. Una padella da pallone e una sollevata di bicchiere ma allora scusi ma da voi comincia a sudare secondo se birra per rossa passa un po' cosa cucciò da me io cucci pugiato in ogni trausori anche può fare da tanti fanno trausori a chi mi era consente sono che ci faccia mamma mia mi metto una cacca sogo si ci faccia un po' con l'arietta speriamo che oggi si faccia il movimento anche alle notti non andava un filo di vento poi vieni che me ne sono dopo dubbi già ricetto manzano ma che ero tutto infuso ero infatti ero fatto da maniera sono colavato un po' caredo e poi sono andato ci sono riuscito per andare a pigliare un giornale con Edo fare un freco. Che era dicio? Ha preso lo treno. Sicuramente ha preso lo treno oggi. Attenzione signor Marino! Sa che giù che ne gruballone! Sai che ti dico Tore, che è arrivata l'ora del merendero! Pochi minuti ancora e dunque cominciamo a comprare i cali. A domani Tore. Ciao Tore, buona serata, saluta la signora, buona cena, buon giusto, a domani. Ciao Giovanni, buona serata anche per te. Saluta la signora, a domani, a risentirci. Ma chi si ascolta fino a lingua che passa in QRT. Ciao ciao, riprendi. Ok, ciao signor Bacchi, ci sentiamo a domani, ok, e buona cena. Avanti Giovanni se ci sei. Non da fa, non c'è il signor Bacchi. Io che è andato a fare a muro, va bene dai, a domani, ciao ciao. Ok, ciao Bacchi.